Quindi se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Charlie Chaplin partecipò a un concorso per sosia di Charlie Chaplin a Monte Carlo e arrivò terzo. Quella è una storia assurda. La bufera è passata, ogni cosa al suo posto. Festeggiamo l'estate ed il mare di agosto. Tutti insieme compatti, la fonti da Tarzano. Tutti insieme felici in nome del popolo italiano. Questo è un Parlamento che non si assume le sue responsabilità. Questo è un Parlamento che gioca sulla pelle delle persone e continua a farlo anche oggi. Assumetevi le vostre responsabilità. Voltafaccia assoluto. Movimento 5 Stelle si deve assumere le sue responsabilità. Ancora in questi giorni chiedeva rassicurazioni sul fatto se il Partito Democratico teneva in aula. Il Partito Democratico tiene in aula. Il Movimento 5 Stelle cambia parere, fa un dietrofront improvviso. È una cosa molto grave, molto seria. Già l'aveva predetto la Sibilla umana. Sigli a fiato alle trombe, forza amici, applaudiamo. Tutti insieme felici in nome del popolo italiano. Una volta per tutte davanti al paese, dite alla gente che aspetta questi diritti: Frocio, non ce l'avrai. Festeggiamo l'estate. Ecco, abbiamo sdoganato anche grazie al senatore Rola la parola Frocio. In aula, al Senato. Oh mamma mia, che è successo? Che sta succedendo sulle unioni civili? Devo spiegare un attimo, perché il Movimento 5 Stelle ieri alle 19, o minuto più, minuto meno, ha annunciato attraverso il senatore Airola un cambio di linea. Non voteremo più il super cangurum. Storia di canguri, dovete seguirmi. Il canguro. Oggi peraltro è la giornata mondiale dei gatti, ma beh, adesso non creiamo panico, andiamo con ordine. Anzi, convoco subito la gattara per eccellenza di Roma, Paola Saluzzi, buongiorno. E da mezzanotte. Allora, perché qui la cosa si fa animalesca, attenzione. Assolutamente, buongiorno, intanto buongiorno. Un attimo, faccio il buongiorno sulla base della mia sigla, scusa. Sì. Alino, buongiorno. Questo, poi gattara, giornata mondiale del gatto, ma questi sono momenti importanti. Giornata, vorremmo... È uno zoo! Ti preannuncio, sì, poi c'è anche Luca Dini, quindi lo zoo è completo. Dai Luca, no, subito, buongiorno. Nel senso... Però Luca Dini è un po' un gatto. Nel senso che ha un gran bel manzo. L'ho detto io, come acari. Attenzione, no, la questione eccoci. No, allora oggi ti preannuncio che voglio un editoriale di Caterina, il tuo gatto. Ma sta dormendo qui vicino a me. E svegliala, dale una botta, ma no, su, svegliala. Ma no, Pauline, così morbidina, tutta buona. Vabbè, allora, attenzione, Paola, vediamo se ho capito bene. C'è un super cangurum in atto, cioè quel emendamento che farebbe saltare tutti gli altri emendamenti. E invece la Lega aveva 5.000 emendamenti, ma li ha ritirati quasi tutti, ne rimangono un 500. E allora, quelli del 5 Stelle che avevano detto voteremo il super cangurum, hanno detto no, cambiamo linea, siccome sono rimasti solo 500 emendamenti, sono due giornate di lavoro, possiamo anche discuterli. E quindi non voteremo più il super cangurum e basta, sono partite accuse dal PD... Sai che pare che Renzi dall'Argentina sta rientrando, ha detto traditori ai suoi ha detto, dice il Corriere, traditori, han cambiato un voltafaccia clamoroso. Ecco, l'ho riassunta bene, Paola? Perfettamente, ne vedremo delle belle. Questo è il sottotitolo, sottopancia. Ne vedremo delle belle. Sì, sono due giorni di grandi combattimenti. Sì. E questo, vabbè, questo è. Era si preannunciava in questo modo, ma si preannunciava così. Sì. Siamo qui per forse anche la naturale, come dire, la naturale attività all'interno di un Parlamento carico di energia e frizzante. Ma sì, certo, vabbè, ma poi mi pare che ho detto, ma insomma, no, mi pare che abbiano allestito anche i cordoni, se la giocheranno sui 15 round e quindi deve essere un bello spettacolo a partire da oggi. Deve essere noi un siamo bello qui. Spettacolo. Noi siamo lì ad assistere, facciamo i secondi. Posso dire una cosa? Certo che puoi dire. Non c'è, il merito non c'entra niente. Non gliene frega nessuno, cioè voglio dire, ai 5 Stelle in questo caso non gliene frega niente dei diritti o del merito della legge. È una scelta fatta soltanto per non regalare una vittoria politica a Renzi. Vabbè, questo è chiaro. E questo . Trovo che sia un cinismo politico sui diritti, fatto sulla pelle delle persone, che è agghiacciante. Però. No, ma è chiaro che è una partita politica, cioè adesso la legge però, è stata messa, è chiaro che... Prima o poi qualcuno pagherà anche. Tra l'altro, appunto, a proposito della partita politica, apriamo il Parlamento, va, che così saluto anche i nostri Peter Bescapè in regia, prendere un caffè, quindi se mai ci vediamo e Lorenzo Nespoli in redazione, il ministro Boschi è lì. A proposito di partita politica, c'è questa. Pare, secondo Repubblica, che adesso Renzi, preoccupato perché i numeri non li ha, potrebbe fare quello stralcio, lo stralcio della stepchild adoption. E vi piace come lo progetto? Stralcio, cioè praticamente vincerebbe Alfano, come sempre, inspiegabilmente, Luca Dini. Alla fine Alfano, col suo 2%, ce la fa. Finirà così? Temo di sì. Dimmi di sì, insomma. Vedi che, non lo so, Paola, tu che dici? Vedi che facevo bene a chiedere i pronostici in questi giorni. I pronostici, questo però è più è molto complicato dare un pronostico di tutto ciò che accadrà. Sì. Perché potrebbe, adesso dico delle ovvietà e me ne scuso anche a chi ci ascolta, potrebbe andare così. Potrebbe andare sì, così. È chiaro. No? Il problema però è capire fino all'ultimo che cosa... Vedi che basta un attimo e si cambia linea, ma tutto sommato decidiamo di... Potrebbe essere questo, potrebbe anche non andare in questa così. Maniera. No, ma è ovvio, ce la giochiamo come... Allora, è una finale di Coppa del facile, Mondo. Facile non era, fin dall'inizio, facile non era. Sì, questo è vero. E certo che si discute sul merito e si dovrebbe tenere presente... il merito della discussione, non so come dire, ecco, però... tenere presente che si decide per una legge che forma o non forma famiglie, forma o non forma gruppi, quindi insomma... È una cosa delicata e dovrebbe parliamo molto delicata, sì. Parliamo di un gruppo che quando pensava che non si potesse votare la step child adoption aveva detto che avrebbe votato la legge solo se c'era la step child adoption. È vero. Poi ha detto che l'avrebbe... votato soltanto se c'era il canguro, poi insomma vabbè. Sì, forse è un bluff, è un complotto, direi. È un complotto, eccolo lì, è un complotto. È un controcomplotto. C'è spazio anche per i complotti e i controcomplotti. Intanto ci fa sapere il nostro ascoltatore dall'Australia, che ci segue sempre, che qui di canguri ce ne sono tanti. Effettivamente. Super canguri, esatto, effettivamente è un po' così. Saluto anche il nostro mitico Remo, ci fa sapere che alla diga oggi c'è pioggia e nuvole, dunque solo 28 gradi alle Seychelles. 28 gradi alle Seychelles. Però ve lo devo chiedere così, questa cosa di Niki Vendola, perché, caro Luca, io ricordo male, o ricordo che fece anche un'intervista a Vanity Fair, Niki Vendola parlava del desiderio di paternità, eccetera. Allora, sì, c'era anche il suo compagno. Le indiscrezioni sono sempre più forti. Beh, c'è anche una componente di gossip su queste cose, è inutile negarlo, dai. Sarebbe darebbe in Canada, ora lo darebbero in Canada, dove c'è la maternità surrogata, l'utero in affitto, che ripete una pratica che a me non piace. Personalmente lo dico, non piace. Sono contento di vivere in un paese dove è vietata. Non lo so, è più forte di me, è una cosa che non... Non la trovo una cosa bella, una cosa positiva, non so che dire. Però c'è questa storia di Vendola, ti farebbe scalpore, caro Luca? Farebbe scalpore? No. Anche a me risulta comunque che sia, cioè che non sia in Italia, che sia là. Poi non che so, poi, vabbè. Vabbè, uno può fare anche una vacanza, però forse a questo punto sembra abbastanza. Il compagno è canadese, quindi... Non ho capito. Il suo compagno è canadese. Quindi... No, ma è chiaro. Cioè, i rumors sono sempre più insistenti sul fatto che sarebbe lì perché starebbe per nascere un bambino da una donna che lui e il suo compagno poi prenderebbero come maternità surrogata. Paola, a te da donna... Questa maternità surrogata, o utero in affitto, espressione terribile, che ti suscita? Io da donna e da non mamma, attenzione, quindi insomma la mia è una considerazione. Io di primissimo acchito penso alla straordinaria e infinita quantità di bambini da adottare, straordinaria sta per extraordinaria, cioè oltre i limiti di quello che dovrebbe essere possibile. C'è una quantità di bimbi da adottare. Quindi dici in quella, che, quella strada che fa impressione, ti piace di che più. Fa impressione, strada. Quindi forse bisognerebbe tentare di non so, verrebbe più naturale buttarsi su bambini che ci sono già e hanno bisogno. Sì, e oggi, guarda che tu lo dici, e oggi il Corriere fa sapere che forse se si accelerasse un po' la burocrazia, che è stringente, e lo posso capire il motivo, sulle adozioni, però se si facilitasse un po' di più, magari... Lo posso capire anch'io, Alessandro, però c'è una burocrazia sulle adozioni che supera il limite del giusto controllo, attenzione, che si deve fare, perché tu affidi una vita ad una famiglia. Ma è tanto complicata, cioè... Io ricordo una scena bellissima di una donna in difficoltà che non poteva avere figli, la cui sorella un giorno ha detto: ma lo faccio io per te. Cioè, allora quello non sarebbe stato un utero in affitto, è evidente, no? Diventa un'altra cosa. Io lo trovo, la maternità surrogata la trovo tanto difficile da comprendere, tanto difficile. Non giudico chi ricorre a questa pratica, non lo voglio giudicare, perché ogni storia è a sé stante, però ribadisco, vuoi un bambino? Ma ce ne dico i tanti, ce ne sono tanti che hanno bisogno di una... Io ho due amici di Varese che sono andati a prendere la propria figlia in Etiopia ed è oggi una bambina... bellissima, ma è chiaro, però è chiaro che questo susciterà molte polemiche, questa cosa di Vendola, è inevitabile. Luca, te lo devo chiedere anche brutalmente, Luca, perché tu sei direttore di una rivista, Vanity Fair, non è escluso magari che lo scopriremo grazie a Vanity Fair, non è escluso che... in questi casi ci sono anche delle gare ad accaparrarsi il primo scatto, magari la prima foto, no? Ma non, in questo caso non credo, nel okay. senso che è una notizia, però è una notizia, sì, ma cioè, voglio dire, non ci saranno esclusive, ci saranno decisioni che comunicazione che faranno loro, se le faranno, quando le faranno. Però quello che volevo dire io è che dire utero in affitto è orrendo, dire così già vuol dire. Meglio utero in locazione, come il nostro le storie senatore. Vere prese singolarmente sono abbastanza diverse, e soprattutto si parla tanto di diritti dei bambini. Pare che nessuno in realtà sia andato a parlare con i bambini per capire che cos'è che vogliono loro, che cos'è che si aspettano, che cos'è che li rende felici. Pare che siamo tutti un po' supponendo quali siano i diritti alla felicità dei bambini. E il mondo dei bambini visto dai grandi, quasi come sempre, no? Questo è un po' sì. Vabbè, ma qua invece in Lombardia è arrivato il Che pensi mi? Ah, che spettacolo leggere le intercettazioni dei nuovi arresti della sanità lombarda, no? Sanità eccellente, questo dobbiamo dire, ma le accuse sono le solite, tangenti per appalti, con l'arresto anche del braccio destro di Maroni, il leghista Rizzi, con Maroni che si è detto come molto molto, molto incazzato. Pagherà. Sono veramente incazzato perché il lavoro che abbiamo fatto, che stiamo facendo, che abbiamo fatto in questi 3 anni, che stiamo facendo con grande determinazione per garantire trasparenza. È molto arrabbiato. L'hanno scaricato questo Rizzi. Ieri Crozza su Maroni. Eccolo qua, Crozza. Non è possibile che ogni 2 settimane in Lombardia per la sanità ne arrestino a dozzine, perché prima o poi finiscono, no? No, non le truffe, no? Dico i lombardi. E poi finiscono. Se va avanti così, fra un po' a Milano dovranno importare gli indagati da fuori. Tra gli arresti di questa mattina c'era anche il braccio destro di Maroni. Non mi sono accorto di niente. Ero occupato ad accendere e spegnere le luci del Pirellone per farci la scritta del Family Day, perché noi della Lega siamo contro le coppie di uomini, soprattutto quando hanno la divisa dei carabinieri e prendono sotto braccio il mio braccio destro, lo buttano in macchina. Vabbè, e le passano anche la testa. Maroni da Crozza, la frase chiave era che pensi mi, solo che, cioè, poi pensate, questi geni avevano fatto una società occulta perché non si facevano beccare così. Sai come l'hanno chiamata, Luca? Sai come l'hanno chiamata, Paola? La Spectre. La Spectre! Hanno fatto... Che dilettanti! No, dilettanti allo sbaraglio! Che pensi mi? Ma io poi me ne immagino... Ve lo ricordate il Kumenda dei film di Vanzina, no? Cioè, nell'intercettazione è tutto così. Uè, ma allora, se hai problemi ti mando sul conto a Monte Carlo, poi ne ho aperto una a Dubai. Che pensi mi? Tranquilla! Che pensi... Tutto così l'intercettazione. Detto da te, proprio detto da... Insomma, con giusto accento, no? Mamma mia, andiamo al traffico, va, che poi ripartiamo con i complotti. Amore, ma che fai? Sai benissimo che a quest'ora io voglio solo il traffico. Progetto Fuoco, Fiera di Verona, 24-28 febbraio, progettofuoco.it. Vi presenta... Volevo dirti quanta boria ha detto l'aso. Ma tutta sta boria? E poi chi è che a Roma vota Bertolaso? Chi lo vota è perché ha interessi. La situazione dei gay non deve essere il governo a decidere, ma deve essere il popolo attraverso un referendum. Milan, ma scusami, se i senatori lasciano il beige nella postazione, loro non ci sono. Non è la stessa cosa del dipendente pubblico che marca e non è sul lavoro? Quindi, cioè, a casa tutti. Non bisogna chiamarli senatori, bisogna chiamarli banda bassotti. Ma chi se ne frega del calcio e di tutte le cavolate di Milan, Inter e quegli altri idioti che corrono dietro a una palla. Punto. E andiamo, Milan, sono il fiorentino, comprato Vanity Fair, visto sindaco, tanta roba, bimbo mio. Mi raccomando, complimentati con Luca lo stesso. Ci si vede o ci si sente? Ciao. Il fiorentino è contento. Hai conquistato un lettore, caro Luca Dini. Caro Grazie Luca. Per avermi chiamato Luca lo stesso. Luca lo stesso, esatto. E poi c'è da dire, e beh, oggi c'è Kate Winslet, un po' più coperta. Grande donna. Grande, bene, vero, bene. Vero. Sì. Ragazza in gamba, perché la conosci, ci vai a cena? Ah, allora. No, non lo so, una ragazza in gamba. Ma che metodi, ma non lo so. Ma va bene. Allora, c'è il complotto, arriva il complottone. Luca Dini aveva detto il complotto. Ebbene sì, perché che è successo al Movimento 5 Stelle? La Taverna, Paola Taverna, è andata a Radio Cusano Campus, credo, a dire che c'è un complotto. Sostanzialmente ci vogliono fare vincere a Roma, poi ci tirano via i soldi e così ci fanno fare una figuraccia. Questo è il sunto. Senti qui. Cioè, la scelta di Bertolaso mi ha lasciato veramente perplessa, tanto quanto quella di Giachetti. Questi stanno mettendo in campo dei nomi perché non vogliono vincere Roma, questo è chiaro. Dice, gli diamo Roma, non gli diamo più una lira. Dicono, adesso ci mettiamo il 5 Stelle. gli togliamo i fondi, così gli facciamo fare questa, e questi romani lo devono capire sin da ora, hanno fatto sì. i conti senza lotte. Cioè, ragazzi, il complottone, questo no, è vabbè, no. questo è fantastico, fantastico, è sempre così. Adesso stanno facendo un complotto per far vincere alla Juve lo scudetto, anche quest'anno. Ma è per quello che hanno fatto il voltafaccia, capito? Sulle unioni civili. Dici? È un complotto per sventare il complotto. Però un guarda, complotto, allora un complotto sì. evitante il complotto, il complotto dei complotti, è un complotto che si avvita su se stesso. Però io l'ho detto varie volte, conviene al Movimento 5 Stelle, io da mesi che non vincere a Roma, per la verità secondo me convierrebbe non vincere da nessuna parte, perché sono solo guai, sono solo guai poi amministrare le città. No, è molto più facile fare non vincere, dire. Sì, però giustamente qualcuno dice, ma che fai, fai politica per perdere, stare sempre all'opposizione? Beh, evidentemente sì. No, però in teoria uno se fa politica a un certo punto si deve misurare anche con la gestione, no, della cosa ma pubblica. Anche no. No, meglio di no, ti dici meglio di no. Però questa del complotto è bellissima, questa del complotto è fantastica. Sì, è forte, insomma... È forte, però un'ascoltatrice ha detto, ma chi voterebbe Bertolaso? Eccola qua, Paola Saluzzi, che vota Roma e voterà Bertolaso sicuramente. Ma adesso senti Elino, guarda, no, scherzo, adesso, no, ma... non tirerai mai fuori da me se io voterò a Roma. Ma certo, lo so, volevo ma un po', allora, volevo un po' vedere seri no, Bertolaso se ci cascavi così, come tutti noi abbiamo fatto già prima gli uomini delle primarie del centro-sinistra, invece lo chiamiamo per intervistarlo, ovviamente, come Marchini, come insomma questo chi stia correndo per questa poltrona di sindaco di Roma, che facile non è, sì, voglio dire. Effettivamente sì. Non è mai stata, ma questo giro è più difficile del solito, difficile del solito. Ebbene sì. È atteso il sindaco di Roma. È abbastanza, romani, abbastanza. Serie, ma rimettete su Marino e basta, cioè voglio dire, perché dovete stare a fare? Vabbè, altre questioni. Ma invece di Marino non... Caterina, esatto, Caterina, arrivavo ragazzi, giusto lì. Caterina, ci fa un editoriale, è il giorno dei gatti. Caterina, fai qualcosa. Caterina è il gatto più buono del mondo, tu la sollevi, no, sta sì, ma tu tirale il pelo, che è così lei, no, miagola, no. Sta facendo le fusa, però ecco, non, quelle non capito, le fusa, va bene, non si sentono, no. Vabbè, niente, vogliamo al potere. Caterina fa sciopero, i gatti di Largo Argentino. Esatto, fa sciopero. Caterina e i gatti della Piazza Fina. Io lo so, anche nella giornata mondiale dei gatti Caterina non dice niente. Va bene, io su Vanity Fair devo dire una cosa, a parte Kate Winslet in prima pagina. Pensa te, guarda le coincidenze. L'altro giorno ho raccontato la storia di questo Massimo D'Alonso, ne parlava il Corriere della Sera, malato di SLA, che ha scritto un libro con gli occhi. Ma pensate voi, anche la fatica immane, perché può scrivere le parole lettera per lettera con un puntatore oculare. Luca, l'avete sentito? Avete fatto una foto? Più foto, sì, sì. Sì, è una storia, devo dire, sì, straordinaria, perché non è una storia, è una storia di speranza dove teoricamente non ce n'è. Quindi ma è molto, quanto ci ha molto messo bello a scrivere un libro lettera per lettera, no? Col puntatore oculare? Immaginate una persona assolutamente immobile nel letto, no? Mesi, ma sai... probabilmente anche la cosa che lo tiene, è il progetto che lo tiene vivo, che lo fa andare avanti. Sì. È una bella storia che vi segnalo, la trovate sul numero di Vanity Fair insieme a tante altre cose ovviamente, ma questa ci tenevo in particolare a segnalarla, la storia di Massimo D'Alonso, malato di SLA, che è attaccato al respiratore ma è riuscito a scrivere un libro pure in queste condizioni. Allora, cara Paoletta, noi qua ci dobbiamo fermare. Tu alle 15 ti occuperai. Indovinate del un po', alle quinto 15 round, ci occuperò. Quinto round. Quinto round, canguri. Si prosegue. Sulle unioni civili, canguri. Porta Caterina in onda. La proposta c'è. Caterina, Penny, che poi è sua sorella, ma che ha un altro mio carissimo amico, che poi viene Semeraro, il mio coordinamento editoriale a Sky24. Quindi Siamo tutta una famiglia di gatti. Cioè, vi siete divisi i gatti lì a Sky. Assolutamente, Rocco, Gioia, mia sorella. Ma portateli in onda, siete autorizzati. Oggi è la giornata mondiale del gatto, potete fare quello che volete. Devo chiederlo al mio direttore. Ma no, ma oggi te lo fa fare, è la giornata mondiale del gatto. Magari Caterina lì un editoriale lo fa, lì le aspetta, proviamo a vedere, perché... Dai. Vediamo un po', Caterina, di qualcosa. a mamma di qualcosina. No, le tiro la coda, sto tirando la coda al gatto, non fa nulla. Fa le fusa. No, comunque non è un pappagallo che ripete, è inutile che dice Caterina, parla, Caterina. No, ma così carina, se voi sapesse. Ah, questi sono i miei baci al gatto. Sì, va. Dovreste mandarci un selfie, io ve lo dico tutte le volte, Luca Dini e Paola Saluzzi su Twitter. Fate Vobis, una foto, fate Vobis. Ciao, alla prossima. No alla stepchild adoption, che rischia adoption. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan, che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Eccoci cari ascoltatori, sono le 7:18 minuti, forza, che è una giornata molto uggiosa e piovosa a Milano, una di quelle giornate che ti svegli e dici, oh, torniamo a dormire, va. Eccoci qua cari ascoltatori. Oggi avremo ospite Roberta Lombardi del Movimento 5 Stelle per cercare di capire soprattutto cosa succede a Roma, dove si parlano di complotti, ma anche un po', insomma, il clima politico, anche se Roberta Lombardi siede alla Camera e non al Senato, ma di questo tema, e cioè della questione anche Unioni Civili, Movimento 5 Stelle, l'accusa di avere cambiato improvvisamente registro e atteggiamento in Parlamento, bene, parlano molto i quotidiani, anzi molti aprono su questo. Allora andiamo a sfogliarli. Mercoledì 17 febbraio, i titoli Sole 24 Ore apre sul petrolio, Arabia e Russia congelano la produzione, questo è il titolo di prima pagina, il greggio sale e poi perde il 3% al prezzo. Mentre eccoli quelli, Unioni Civili stop dei 5 Stelle, questa è l'apertura del Corriere della Sera. Per Repubblica invece, unioni dietro front di Movimento 5 Stelle, l'ira del PD, legge a rischio. Il Messaggero, no Movimento 5 Stelle, Unioni Civili a rischio. La Stampa, Unioni Civili, lo sgambetto di Grillo. Unioni gay, agguato al PD, questa è l'apertura del Giorno. Mentre Avvenire, canguro senza forze. Qui bisogna spiegare anche cos'è il canguro, anche se l'abbiamo detto varie volte. Il Manifesto mette una foto del Senato, il titolo è I compromessi sposi. Mentre l'Unità, Grillo abbatte canguro. Oh, il canguro ha conquistato già due titoli di prima pagina, Il canguro. Proprio nella giornata mondiale dei gatti, oggi. Vabbè, insomma, siamo allo zoo. Libero, ci impongono una legge per dare un figlio a Vendola. Colpo di scena sul canguro, i grillini voteranno contro. Il Fatto Quotidiano e Il Giornale sono gli unici due grandi quotidiani che hanno aperture diverse da quella sulle unioni civili. Il Giornale, l'Austria ci lascia gli immigrati, Brennero e Tarvisio blindati, cioè riappare il controllo di frontiera con l'Italia. E poi il Fatto Quotidiano invece, mala sanità, l'inchiesta Smile, sorridi. Rubano pure sulle dentiere, Regione Lombardia da sciogliere, questo scrive il Fatto Quotidiano. È la vicenda che ha portato all'arresto di Fabio Rizzi, tra i 21 arrestati eccellenti. Lui è il presidente della Commissione Regionale della Sanità della Lega. È una nuova inchiesta che ipotizza il classico che purtroppo nella sanità, anche nella sanità di alcune regioni, sicuramente di eccellenza come la Regione Lombardia, è la classica accusa di appalti, cioè avere appalti da parte di imprenditori in cambio di sontuose mazzette nei confronti, in questo caso l'accusa ovviamente tutta da dimostrare, poi è anche di politici. Sanità in cella, il braccio destro di Maroni, questo è il titolo di pagina 6 del Corriere della Sera. Per la verità, lo stesso Maroni che si dice incazzato e racconta il Corriere della Sera, al di là della cronaca, interessante Marco Cremonesi, proprio il cambio di linea, c'è stata una telefonata tra Salvini e Maroni e la linea scaricare tutto, cioè fuori chi sbaglia, la sospensione e la presa di distanza immediata da parte di Maroni. Tante volte c'è stato anche del garantismo, in questo caso il governatore della Lombardia in conferenza stampa ha detto incazzato e prende le distanze dal suo stesso, insomma, braccio destro, così è definito dai giornali. Ma è un profluvio, leggendo le intercettazioni, stralci di intercettazioni di questa inchiesta, straordinario. La parola chiave, o meglio l'espressione chiave, era quella che Maria Paola Canegrati, classe 61, lombarda doc monzese, ripeteva più volte intercettata: "Ghe pensi mi? Ghe pensi mi? Ci penso io", in dialetto. "Ghe pensi mi?" Questa era la frase chiave. Lei, che è definita e si autodefinisce "sono come mandrache" nelle intercettazioni, è tutto, dicevo, un profluvio di... Ve li immaginate? Io mi ricordo proprio le scene, lo dicevo prima, anche del Cumenda, quello dei film di Vanzina. Uè, bella! Allora, eccolo qua. Vuoi un milioncino? Vai a Monte Carlo e ti porti via i piccioli. Oppure ti ho aperto un conto a Dubai. Ecco, queste erano le intercettazioni, proprio, no? Di quel mondo così. La cosa che però fa molto arrabbiare, come si legge sul Giorno, e come poi impatta tutti noi tutta questa inchiesta, è, leggete qua, "il paziente non paga, vada alle calende greche". Ecco cosa succedeva, secondo l'accusa. La manager Canegrati intercettata diceva in pratica di gonfiare le liste d'attesa volutamente per spingere i malati esasperati, quelli che magari devono fare un esame, a scegliere il privato. E casualmente, eccolo qui il privato. Che pensi mi? Capite poi quando chiamate e dite "c'è bisogno di fare un esame del sangue"? No, del sangue no, ma insomma, un esame un po' più complicato, venga tra 6 mesi. Che pensi mi? C'è il privato se vuole. Vabbè, tra l'altro, pagina 5 di Repubblica, Massimo Pisa ed Emilio Randacio. Allora, vengono arrestati anche tale Longo, che è il braccio destro di Fabio Rizzi, presidente della Commissione Sanità. Viene arrestato anche lui e sentite qui. Longo e Rizzi sono soci occulti tramite le loro compagne in una società. Sapete come hanno chiamato questa società? Spectre. La Spectre erano. La Spectre. Consigliere a libro paga della Zarina, tu hai pezzi da 500 euro in soffitta. E poi c'erano le contrattazioni anche. Tu per ogni clinica avrai 15.000 euro. No, quant'è? 25.000 euro. Ma come? Avevamo concordato 30.000. 25.000 e ti bastino. Che pensi mi? Poverino. Pure lo sconto gli è toccato fare, secondo l'accusa. In tutta questa storia segnalo la commercialista Giovanna Ceribelli, intervistata dal Corriere della Sera da Armando Di Landro a pagina 7, chi è? Ecco, lei è la donna che ha fatto partire tutta la denuncia. C'è sempre qualche figura positiva anche in queste vicende a trovarla. Nasce da un esposto di una commercialista di 68 anni l'inchiesta che ha travolto la sanità lombarda. Si chiama Giovanna Ceribelli, di Caprino Bergamasco, passionaria dei conti e della trasparenza, entrata nell'azienda ospedaliera di Vimercate. Sarà stata la Ceribelli a passarvi qualcosa. Questo continuavano a dire ogni volta che sulla stampa emergeva qualcosa. Lei in realtà coi giornali non parla, solo qualche domanda. Perché appena nominata lei è andata a controllare la gara d'appalto del 2009? Beh, a Campione, quando svolgo il mio lavoro, verifico più gare. La società vincente era già stata protagonista di una strana gara all'ospedale di Seriate. A Seriate lei fu un incubo per l'allora direttore Amadeo. Un incubo? Non lo so. Io facevo solo il mio mestiere. Cioè, capite? In Italia, io facevo solo il mio mestiere. Sarebbe da applausi questa signora che dice: no, in realtà io non parlo con la stampa. Ogni volta che trova qualcosa che non torna nei bilanci, mette tutto nero su bianco e va in procura o dalla Guardia di Finanza. Così si fa. Ma anche a far normalmente il proprio mestiere si passa, giustamente, in qualche modo anche per eroi. Eccoci qua. Intanto lemme, lentamente, signore, è arrivata la relazione che doveva arrivare in qualche giorno e ci ha messo una ventina di giorni o forse più, sulla vicenda delle statue coperte quando è arrivato il presidente iraniano. Vi ricordate? La relazione segreta sulle statue censurate ce l'ordinò l'Iran. Ma già questo titolo su Repubblica, Giovanna Vitale, ma come può l'Iran, attraverso chiunque, ordinarci qualcosa in Italia? Ma mi sembra di un'assurdità, c'è la classica spiegazione ancora peggio della toppa messa alle statue. La sovrintendenza, dice al prefetto, scelte fatte da altri. C'è stata anche l'ipotesi poi scartata di velare anche il ratto delle Sabine. E comunque questo titolo mi ha fatto arrabbiare tantissimo. La relazione segreta ce l'ordinò l'Iran. Ma come? Ma siamo uno stato sovrano o siamo uno stato da operetta? Che arriva il presidente iraniano e attraverso i suoi emissari dice chiudete, fate, disfate, coprite. In realtà anche il Fatto Quotidiano ha mezza pagina di Paola Zanca su questo. Le statue coperte, l'indiziato alla Farnesina, per la verità l'aveva già scritto Libero quasi subito, l'indiziato è il trentenne Fabrizio Attolico che guidava il cerimoniale nelle visite dei capi di Stato stranieri, il cerimoniale degli esteri, il cerimoniale diplomatico che si occupa di definire i dettagli degli incontri. Ma comunque da entrambi gli articoli si evince che un nome nero su chiaro responsabile non c'è, questo si sapeva dal primo giorno, non è che ci sarebbe stato scritto il responsabile di questa immensa bip è Pinco Pallino, no, questa cosa. Non c'è tutto un groviglio di colpa mia, colpa tua, ha preso la decisione lui, eccetera. E vabbè, andiamo però all'articolo che mi ha fatto pinzare già all'inizio di questa giornata. Il premio Mani sul Volante per l'articolo che ci fa pinzare della giornata va al racconto di Pierangelo Sapegno in prima pagina della Stampa. Perché prima raccontavo della commercialista che ha dato il via a tutta questa inchiesta sulla sanità, a dire vedete a fare il proprio dovere? Vedete a fare il proprio dovere? Denunciavo chi rubava, sono stato licenziato. Prima pagina della Stampa è la storia di un signore che dice chiameremo Gianni, lo incrociamo e lo incontriamo nello studio del suo avvocato Pierluigi Vittadini a Pavia. Lo dobbiamo chiamare così per tutelare la sua incolumità. È una persona che dice denunciavo chi rubava alle mense, alla mensa dell'ospedale San Matteo di Pavia. Li ho denunciati, era un continuo via vai di gente che entrava e si portava via il cibo. Li ho denunciati, io non ho rubato neanche un'arancia, sono stato licenziato perché poi c'è stata una rissa all'interno, visto che c'era stata molta tensione con i dipendenti e io vengo cacciato per una rissa, ho perso il lavoro, ho perso la moglie, ho perso il figlio perché sei andata via con mio figlio, non sapevo più come campare. Dopo 3 anni dalla denuncia, ora la polizia arresta tutti coloro che rubavano dicendo aveva ragione quel dipendente, c'era un giro di persone che rubava e lui denunciavo chi rubava, risultato licenziato. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che capitano. State ascoltando un programma offerto da Centrosoftware.com, i migliori ERP per gestire le imprese italiane. Alessandro Milan, il super canguro dell'informazione. Doin, doin, doin, doin. Ma geniale questa ascoltatrice. Boing, boing, boing. È la giornata mondiale dei gatti e siamo qui a parlare di canguri. Ma guardate, oggi la parola canguro, che però non è, cari amici piccini che state andando a scuola con i vostri genitori, non è riferita a quel boing, boing, boing, boing che pensate voi. È sulle prime pagine dei giornali, parlano del canguro, cucciolotti di 10 anni. Potete oggi dire a papà e mamma, dai fammi vedere il giornale che parlano dei canguri, che belli questi animali. No, parlano dell'emendamento del super canguro che sta creando un po' di casini al Senato, diciamola così. Allora, cerchiamo di mettere ordine a quello che è successo. E quello che è successo è che ieri, ore 19 circa, come racconta Alessandra Arachi sul Corriere della Sera, pagina 2, Il senatore Airola, Alberto Airola del Movimento 5 Stelle, prende la parola in aula e dice: non possiamo votare il super canguro. E cala il panico sul gruppo del PD. Il super canguro è quell'emendamento ideato dal senatore Marcucci del PD che, se approvato, in pratica bypasserebbe tutti gli emendamenti. Permetterebbe di non discutere tutti gli emendamenti. Per la verità, questo super canguro era stato ideato da Marcucci perché la Lega aveva messo in piedi 5.000 emendamenti. Il ragionamento del Movimento 5 Stelle è questo: siccome la Lega ieri ha ritirato gran parte di questi emendamenti, circa 4.500, ne sono rimasti in piedi solo 500, a questo punto il super canguro non serve più. Discutiamo, visto che 500 emendamenti sono solo 2 giorni di lavoro. Ecco che quindi il senatore Airola, intervistato da Repubblica, si difende proprio così e dire: non c'è nessun voltafaccia da parte nostra. Ci siamo trovati in una situazione molto difficile. C'erano 5.000 emendamenti dall'altra parte, allora si poteva ragionare sul nostro appoggio al canguro, ma con 500 emendamenti no. 500 emendamenti sono 2 giorni di lavoro. Io non ero favorevole, ero favorevolissimo al canguro, l'avrei anche votato davanti al muro di migliaia di emendamenti, ma ora il canguro metteva in difficoltà molti parlamentari perché è un tipo di misura che noi non concepiamo. Poi è successo che la Lega ha ritirato 4.500 emendamenti, a quel punto non potevamo dire sì al canguro, a una procedura che abbiamo sempre avversato. Tra l'altro conclude l'intervista Airola dicendo: ognuno si prenda la propria responsabilità. Mi riferisco a Scalfarotto del PD che mi ha detto: siamo nelle tue mani. E no, bello, no, tu sei un sottosegretario, prenditi le tue responsabilità. Sì, perché qui l'accusa da parte del PD è quella: volta gabbana, avete fatto un volta faccia, avete cambiato linea, avevate detto che il canguro lo votavate, adesso siete inaffidabili, o come dice Renzi dall'Argentina, furibondo, traditori, volta faccia clamoroso dei grillini. Questa è l'accusa, prima di salire sull'aereo, lanciata ai suoi collaboratori e casualmente spifferata e finita su tutti i giornali. Eccolo qui a pagina 4 del Corriere, a pagina 3 della Stampa: Renzi furibondo col Movimento 5 Stelle, volta faccia elettorale per prendere voti a destra. Anche qui sul Messaggero: Renzi furioso corre ai ripari. Ecco come corre ai ripari Renzi: sta a vedere che alla fine vincerà Alfano. Finisce quasi sempre così. Alfano e il nuovo centrodestra vogliono lo stralcio, cioè togliere la questione della stepchild adoption. Vi piace? Adoption, stepchild association. Insomma, quella roba lì. E Annalisa Cuzzocrea e Goffredo De Marchis raccontano su Repubblica che Alfano è vicino a questo obiettivo. Perché ora si affaccia l'ipotesi di una ritirata, scrive Repubblica, per salvare le unioni civili, un dietrofront che avrebbe il profilo dello stralcio delle adozioni per le coppie gay. Perché se è vero che l'ordine dei renziani è picchiare duro sul cinismo dei 5 Stelle, come lo chiama Renzi, è anche vero che il premier è costretto a essere realista, cioè a contare i voti favorevoli all'emendamento canguro che permetterebbe di evitare decine di voti segreti e centinaia di proposte di modifica. E dunque, per tutta la notte, il sottosegretario Lotti e il capogruppo Zanda hanno lavorato sui numeri. E altro che adozioni, ora rischia l'intera legge, rischia la sconfitta al PD nella votazione del canguro. Quindi, in attesa di rientrare a Roma stamattina, Renzi immagina la strada di un patto dentro la maggioranza di governo, un accordo con Alfano, che scansi la stepchild adoption per portare a casa le unioni civili. È tutto come una partita di calcio assolutamente indecisa e indecifrabile, tutto aperto. Staremo a vedere. Intanto il Movimento 5 Stelle si distingue anche per queste urla al complotto che Paola Taverna ha lanciato a Radio Cusano Campus. Il complotto. Non è la prima volta che si affaccia dalle parti dei grillini, ora la senatrice Taverna ha questo sospetto. Il sospetto che ci sia, udite bene, un complotto per far vincere a Roma il Movimento 5 Stelle alle comunali. Voi dite, ma come per far vincere, per far perdere? No, no, no, per farli vincere. Cioè, dice la Taverna, hanno messo gli altri dei candidati minori, Giachetti, Morassut, Bertolaso, candidati sgraditi ai cittadini, per far sì che vinciamo noi, poi ci tolgono, ci chiudono il rubinetto dei soldi a Roma e ci faranno fare una brutta figura. I cittadini lo sappiano. Cioè, siamo veramente... Bellissimo, il complotto per farci vincere, questo i 5 Stelle. C'è oggi Mario Giordano su Libero che si esercita con la consueta penna intrisa nell'ironia su questo complotto, la comica grillina. Beh, intanto esordisce Mario Giordano, c'è troppo vino in quella taverna? L'ultima della senatrice 5 Stelle che a Roma ci sarebbe un complotto per far vincere il movimento, ma non è fantastico? In casa Grillina avevano sentito il complotto delle scie chimiche, il complotto dei microchip sotto la pelle, il complotto del grano saraceno, il complotto delle torri gemelle. Eravamo arrivati a accertare l'esistenza del pericolosissimo complotto giudo-pluto-oceanico per negare l'esistenza delle sirene da parte dell'onorevole Basilio. E poi naturalmente un'infinità di complotti per fermare la forza rivoluzionaria dei 5 Stelle, ma il complotto per condannarli alla vittoria, ecco, quello riesce ancora a sorprenderci. Voi capirete che la nuova prospettiva apre scenari rivoluzionari. È come se Andrea Agnelli protestasse. C'è un complotto per far vincere lo scudetto la Juve o da Sanremo gli stadio. Chi è che ha complottato per farci arrivare primi? Ecco, ci sono i complotti per farci vincere. Vabbè, è un complotto per far vincere l'Inter, questa è la verità. Mauro Meazza, questa è nuova, è il complotto per farci vincere. Buongiorno. Caro cangurone, volevo... Cangurone mio. Ho sentito che sei molto preso dal canguro oggi. No, cioè, ci deve essere un complotto per far crescere gli ascolti di Radio 24, nonostante noi due. Esatto, è un complotto. C'è un complotto, evidentemente, perché sul Sole 24 Ore di oggi, tra molte altre cose, si dà conto anche dell'ottimo andamento di Radio 24. È vero. Un aumento di ascolti. Ieri parlavamo di questioni finanziarie, oggi riferiamo anche di questo aumento degli ascolti, viene da precisare appunto nonostante le nostre interruzioni. Va bene, comunque con un salto da canguro per stare in tema, invece ti vorrei dire che oggi con il Sole 24 Ore trovi, come ti avevo annunciato ieri, sono uomo di parola, la riforma degli appalti spiegata in un allegato di 16 pagine. Ora devi sapere che al 18 di aprile prossimo, sì, bisogna arrivare con il recepimento di una serie di direttive, già è stata fatta la legge per dare corso a tutto questo, allora che c'è dentro? Te lo spieghiamo nelle 16 pagine, tra l'altro ci sarà un ruolo maggiore, molto maggiore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, tra le altre cose. Me lo segno, è 18 aprile, se vuoi fare il countdown come fai di solito, balzellando così, cangureggiando tra una cosa e l'altra. Volevo, detto questo, segnati anche, già che ci sei, il 23 febbraio. Eccoci qua, 23 febbraio. Sì. Okay. Tu, quando succede? Mi chiami, tu prendi già l'agenda, perché infatti, no, perdiamo tempo. Io la tengo qua sul portale. Oh, bravo, segnati 23 febbraio. Perché? Non per questioni di Champions League, che purtroppo non riguardano né te né me, ma perché il 23 di febbraio comincerà il manuale di educazione finanziaria del Sole 24 Ore. Sarà infatti diffuso in quella data con il Sole 24 Ore il primo di 15 volumi di educazione finanziaria. Ma ne parleremo, avremo modo di parlarne. Per intanto ti voglio dire, hai visto i dati dell'occupazione 2015? Certo. Una buona notizia, insomma, tu cerchi sempre buone notizie. Più 764.000 contratti di tempo indeterminato, insomma. Come dire, meglio che perdere l'ombrello? Vogliamo dire che è una notizia così? Una giornata di pioggia, poi. Meglio che perdere l'ombrello. Allora, di questo riferiamo naturalmente nelle prime pagine, naturalmente anche tutta la vicenda del petrolio, con questa intesa in vista tra l'Arabia Saudita e la Russia, molto importante per evitare un calo ulteriore di prezzi, vedremo se poi funzionerà. E poi ti voglio anche segnalare, tra le molte altre cose, che si parla di un rinvio per il prospetto dei disabili, è un adempimento che le aziende devono fare entro febbraio, ma si parla di un rinvio. Sai dove l'ho appreso? L'ho preso leggendo religiosamente, come tu anche dovresti fare, le pagine di norme e tributi. Certo, certamente. È tornato Enrico Slitta, vabbè. Prego? È tornato Enrico Slitta, dico, col rinvio. Ah, Enrico, no, bello. Ci sono stati un po' di problemi, riferiamo alle pagine di norme e tributi, proprio con l'invio telematico. A volte sai che la telematica non è così affidabile. Comunque trovi tutti i particolari nelle pagine di norme e tributi, laddove anche troverai che secondo la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo il portale su internet non è responsabile se ci sono i commenti un po' sguaiati. Questo è stata l'indicazione che è venuta dai giudici di Strasburgo. Noi, come dire, sai che le sentenze non si discutono, lo riferiamo, ne parliamo naturalmente in norme e tributi. Bene. E infine, ultimo ma non per questo meno importante, la nuova Giulia, la nuova macchina, arriverà con 15 giorni di anticipo, verrà prodotta con 15 giorni di anticipo. L'ho letto nelle pagine di Imprese e Territori, dove tra l'altro continuiamo a parlare di questa vicenda del dumping cinese e della possibilità che l'economia cinese diventi, acquisti lo status di economia di mercato, ma di questo ti formerai più tardi. Io per intanto ti parlo della nuova Giulia perché? Perché ti parlo di automobili, perché devo dire la mia parola conclusiva. Traffico! Progetto Fuoco, Fiera di Verona, 24-28 febbraio, progettofuoco.it. Vi presenta Alessandro Milan. Se fossi il tuo compagno, quante botte ti darei? Va bene, giustamente, in tempi di Cirinna va bene tutto, va bene tutto. Allora, cari ascoltatori, che dire, attenzione, l'allarme è lanciato, trova spazio in prima pagina di Libero, arriva la tassa sugli ascensori, questo è l'allarme lanciato perché c'è allo studio del governo, non ridete, la tassa sugli ascensori è una cosa seria, c'è allo studio da parte del governo l'idea per cui c'è una revisione di tutti, aspetta che è caduto Libero, devo piegarmi un attimo, mi devo allontanare dal microfono due secondi, uno, due, ecco, sono tornato, e mi era caduto, non lo trovavo più. C'è allo studio da parte del governo l'idea di una verifica straordinaria per tutti gli ascensori esistenti in Italia in servizio nel 1999, cioè la gran parte degli apparecchi oggi in funzione. Questo costerebbe, secondo stime di Confedilizia, il doppio della TASI. Un salasso di circa 400 euro l'anno per i proprietari. Io, il proprietario di casa, io ve la giro così, arriva, non arriva, certo la sicurezza è importante, però questo è il dato di fatto, attenzione. Va bene, tuffiamoci un po' sulle questioni estere, dove c'è da dire che ci sono il giorno dopo le reazioni sulla questione dell'uccisione di Giulio Regeni, reazioni della famiglia, reazioni anche abbastanza sdegnate, perché ieri la notizia che Giulio abbia lavorato per un anno con una agenzia di intelligence, notizia che è stata diffusa dalla stampa, questa agenzia si chiama Oxford Analytica, ha ancora diffuso l'idea, ma non è che collaborasse con i servizi segreti, eccetera. Giulio non era una spia, così si offende la sua memoria. Questa è la reazione della famiglia. C'è da dire che, col massimo rispetto, essere anche uno dei servizi segreti o collaborare con i servizi segreti, non sto dicendo che lo sia, non è un insulto. Però, insomma, ci tengono alla famiglia con rabbia a prendere le distanze, dicendo, dire che fa parte del servizio, che collaborasse con i servizi, è un'offesa alla sua memoria, alla sua famiglia. Ci sono queste polemiche, ci sono anche da parte della stampa interviste al numero uno, per esempio, di Oxford Analytica, Graham Hutchings, intervistato dalla stampa, dice: qui Regeni faceva la newsletter, si occupava di produzione editoriale, visto che la Oxford Analytica rilascia un daily brief, cioè una newsletter con la lista dei nuovi prodotti editoriali, eventi, trend economici. Non ne scriveva, non ha scritto alcun rapporto per noi, non lavorava al tema Medio Oriente, il suo nome non compariva sul daily brief, era invece nell'elenco del team Si dice che il suo lavoro possa aver creato problemi per l'Egitto, ma qui non faceva altro di quanto le ho detto. I nostri prodotti sono aperti, non c'è nulla di segreto. Insomma, dice anche di Oxford Analytica, non abbiamo nulla a che fare con i servizi. Però certo, articoli ci sono su questo tema, come ci sono molti articoli sulla vicenda in Siria, che è una vicenda di guerra, racconti di guerre continui. Oggi non posso esimermi dal segnalarvi il solito straordinario Domenico Quirico sulla Stampa. Racconta di che cosa? Della presa di Aleppo, della battaglia di Aleppo. Aleppo tra il cielo e l'inferno, scrive Quirico, era ed è per me, che la vivo da 5 anni, un groviglio, un'impervia salita all'eterno, un isterismo di terrori, di vanità umana, di nefaste ossessioni, di ostinati, sconosciuti eroismi. Aleppo è insieme Guernica e Stalingrado, Sarajevo e Grozny. Far giornalismo lì, raccontare per tanti cronisti che l'hanno scelta e amata quasi come una donna nelle infinite piaghe, vuol dire raccogliere pietosamente le sue agonie, diventare eroi per forza della sua infusa tenacia, rivelatore della sua camera oscura. Lì non puoi toccare le parole se non gli viene data una forma umana. Raccontare Aleppo, piantine, avanzate, ritirate, comunicati, annunci, non è così che capirete. La vita ti scortica e la mattina nel fragore dell'artiglieria ti trovi senza più pelle e durante la notte ti senti trascinare verso l'abisso dell'ombra. 4 anni dopo Aleppo è uguale a se stessa, vi si sale per assicurarsi che esista e poi quando si è arrivati e ci si vede circondati da panorami di infinita rovina e vita non si è ancora certi di trovarsi o meno nella realtà. Perché Aleppo si è fortificata come un serpente attorcigliato e uno fa scudo all'altro? Aleppo agonizza in un tempo che sembra infinito. Forse è una colpa non aver saputo morire? Insomma, su questo, con la sua solita penna sopraffina, si interroga Domenico Quirico, inviato della Stampa ad Aleppo. Ma eccoci qui, dai, è la giornata mondiale dei gatti, su, è inutile, non negate. Miau! Dai, avete il vostro gatto, io ho già preso il biglietto per portarlo nell'isola giapponese, com'è, Aoshima, dove vivono più gatti che umani, è la mia piccola Zen. Oggi 2 articoli, uno dei quali sapete già in che categoria finisce, ma il primo è di Elisabetta Ambrosi, le giornate mondiali. Sapete che c'è la giornata mondiale per tutto, ormai il calendario è intasato. Oggi cosa festeggio, gatti o diritti umani? Certo, ci sono giornate mondiali importanti come quelle sulla pena di morte, quella della salute mentale, il 10 ottobre, e poi a fianco a queste due giornate c'è la giornata mondiale del calcio in culo. Lo sapevate? La giornata mondiale del lavaggio delle mani, che però è importante in realtà dal punto di vista sanitario. C'è la giornata mondiale della pace, ma anche la giornata dei senza pantaloni, la giornata mondiale degli abbracci, la giornata mondiale delle torte, c'è la giornata mondiale di cose importanti, pensate a tutti la giornata della memoria, insomma la memoria della Shoah, e c'è la giornata mondiale dello scarabocchio, la giornata del riordino in ufficio, la giornata mondiale dell'asciugamano, vi rendete conto? Sul Fatto Quotidiano a pagina 20, certo che la giornata mondiale del calcio in culo, non vi dirò che giorno è per non essere istigatore, ma a proposito appunto di giornate mondiali, torna prepotentemente con la carta costa Oscar Grazioli, grandissimo, auguri a sua maestà il gatto, animale magico e moderno, gliela farò vedere a Zen questa pagina, mi farà miau, miau, che io non capisco, la guardo, faccio e poi io l'ho tradotto così. Senti, dammi 2 crocchini e non rompermi i maroni, va. Ma chi se ne frega!